prima di dire quello che succederà in questi giorni, che in Turchia attualmente è in corso una grave repressione, estesa repressione del popolo curdo, in quanto sono state adoperate tutte le armi, diciamo, non solo quelle materiali ma anche quelle giuridiche, contro chiunque prende posizione per la sovranità del popolo curdo, almeno nella propria terra, e quindi per fare una regione autonoma curda all'interno della Turchia. E si è scatenato una serie di arresti dal 2009, anno in cui i curdi hanno conquistato circa 100 città amministrativamente in Turchia con le elezioni, e quindi dal novembre 2009 si è scatenata una repressione giudiziaria con l'accusa di associazione sovversiva, banda armata e soliti reati che poi si utilizzano per terrorizzare le popolazioni che si vogliono ribellare a governi troppo dittatoriali, perché in modo nascosto, ma la Turchia è un governo dittatoriale, e sono state arrestate centinaia di persone dal novembre 2009 ad oggi, e si stanno celebrando processi in tutta la Turchia contro queste persone arrestate, che sono i sindaci, gli amministratori provinciali e comunali di tutte queste città, e in più i giornalisti che appoggiano queste lotte, i giornalisti che solo ne parlano, perché a Istanbul c'è un processo sempre contro, su questa scia di questo processo di associazione sovversiva e banda armata e rivolta contro lo Stato, con cui vengono accusati tutti coloro che prendono posizione per il Kurdistan, e soprattutto i giornalisti, che a Istanbul sono circa 400 incriminati, più di 20 giornali chiusi, e avvocati, gli avvocati di Öcalan, che erano 40, sono diventati 3, gli avvocati dell'Associazione dei diritti umani, che in tutta la Turchia operano e che prendono posizioni sulle condizioni carcerarie dei detenuti, sia curdi sia della sinistra turca, che in tutto saranno più di 15.000 persone nelle carceri turche, nelle carceri speciali, e quindi è andato crescendo il numero di queste persone accusate. Una parte dei curdi sta ancora sulle montagne al confine con l'Iraq e respingono gli attacchi, appunto, dell'esercito turco, che ogni quarto d'ora bombarda queste città che sono al confine con l'Iran e al confine con l'Iraq. Una parte di questi della popolazione curda, che erano stati invitati 2 anni fa a scendere in Turchia dai posti, appunto, che occupano come guerriglieri sulle montagne, e di scendere per fare una trattativa sulla pace in Turchia tra curdi e esercito turco, sono stati invitati a poter fare questa trattativa, e invece quando sono arrivati in Turchia dopo 2 mesi li hanno arrestati. Queste persone fanno parte di un gruppo di popolazione curda che si è rifugiata in Iraq, è abbastanza popolazione, saranno 10.000 persone, che hanno formato una parte del nord dell'Iraq, hanno formato una loro comunità e naturalmente vivono lì in condizioni abbastanza precarie. Noi andiamo in Iraq a trovare le persone che sono in questa situazione, guerriglieri curdi che sono rifugiati lì nel nord dell'Iraq. Naturalmente con noi si accompagneranno degli esiliati curdi iracheni, i quali ci hanno organizzato questa delegazione, che siamo circa 20 persone, avvocati, giornalisti, fotografi, per documentare questa situazione. Ci hanno invitato al Parlamento iracheno dei curdi, e avremo un incontro lì al Parlamento iracheno con i curdi iracheni parlamentari che stanno lì in Iraq, però dopo ci sposteremo nell'enclave turca, diciamo, dove avremo contatti con questi compagni curdi che chiederanno un aiuto, una solidarietà, qualcosa che noi poi riporteremo in Europa, anche a Bruxelles, dove diremo quali sono i problemi. Un problema grosso per il quale si sta facendo anche lo sciopero della fame nelle carceri è quello di Öcalan, che sono 430 giorni che non vede né avvocati né familiari, e il governo turco dice che è una sua volontà, perché non vuole vedere nessuno, cosa non vera, perché si è saputo che appunto lo hanno isolato completamente, e da buoni levantini il governo turco evita che vadano gli avvocati familiari, inventando che il traghetto per andare all'isola di Merali, dove è detenuto Ocalan, è sempre rotto, il mare non va bene, e quindi con questa scusa sono un anno e più che non fanno vedere nessuno Ocalan. Per questo motivo moltissimi curdi anche in Europa, ricordiamo che in Germania sono quasi 4 milioni tra turchi e curdi di emigrati in Germania, e in Belgio, in Olanda e anche in Svezia, stanno facendo degli scioperi della fame, stanno facendo anche un pullman che sta girando l'Europa e che passerà anche, credo, per l'Italia, per pubblicizzare questa situazione. Noi in Iraq incontreremo i curdi, appunto, scesi dalla Turchia in queste terre irachene. Ricordo che in Iraq c'è il gruppo dei talabani, che non sono i talebani, il gruppo talabani e il gruppo Barzani, che a differenza dei curdi turchi gestiscono anche le accise del petrolio. Tutta il Kurdistan è tutta una terra di petrolio, però i curdi che vivono in Turchia sono poverissimi, non gestiscono nulla. Questi che vivono in Iraq, una parte, come ben sappiamo, hanno accettato anche la guerra contro Saddam, perché hanno problemi, hanno avuto problemi. Cioè, andremo anche nella città dove sono stati gasificati da Saddam, abbiamo un gruppo che ci aspetta lì anche per incontrare le municipalità. E però i curdi turchi non è che siano, che vadano molto d'accordo con quelli iracheni, anche appunto in posizioni politiche diverse. E però noi ci barcameneremo tra queste due, diciamo, non fazioni ma diverse posizioni politiche, e comunque porteremo solidarietà a quelli che, come sempre abbiamo fatto, sono gli emarginati, sono quelli che hanno più problemi e che hanno bisogno di una solidarietà internazionale. Senti, la situazione comunque è peggiorata nel corso degli ultimi mesi. Io mi ricordo la nostra ultima corrispondenza, non ricordo se con te o con Alessia, di giugno, in cui appunto stavamo assistendo a un'escalation, però qualcuno ipotizzava anche che forse si sarebbe potuti arrivare a un abbassamento dei toni da parte del governo. Ma guarda che fino all'agosto dell'anno scorso, a luglio, appunto coincide col fatto che Ocalan non gli hanno fatto più vedere nessuno, c'era una trattativa in corso ad Oslo tra, diciamo, le intelligence tipo CIA turca e i rappresentanti del congresso curdo, e è stata interrotta perché la Turchia evidentemente ha cambiato modo di porsi anche rispetto all'Europa, perché evidentemente l'abbiamo visto con le flottiglie, con l'appoggio ai palestinesi, la Turchia evidentemente non gli interessa molto più tanto entrare in Europa, per cui cercava di fare anche trattativo, faceva vedere, e gli interesserà più diventare un appoggio, un gendarme della parte medio orientale, dell'Oriente, e salvaguardare interessi arabi che sono anche per loro interessi molto forti economici, per cui probabilmente avendo spostato lo sguardo dall'Europa al Medio Oriente è evidente che il governo turco ha stretto anche i rapporti, ha diminuito i rapporti che stava avendo anche col popolo curdo, e anzi ha aumentato i bombardamenti, le distruzioni dei villaggi. Addirittura, appunto, mesi fa sono stati anche bombardati dei cittadini semplici, anche ragazzi che vanno a vendere sigarette al confine, hanno bombardato, sono morti 35 bambini tra i 15 e i 18 anni, insomma, che sono quelli che si arrangiano andando a vendere sigarette al confine, dove passa gente che magari gli serve, paga di meno, eccetera. E quindi la Turchia proprio si è scatenata rispetto al popolo curdo, perché non vuole che questo popolo, che loro, facendo vedere che difendono i palestinesi, non è che possono far vedere poi non difendono i curdi, però loro vogliono che non se ne parli, per cui i processi sono tutti soft, i giornali ne parlano pochissimo, anzi per niente. Hanno messo in primo piano un altro processo che il governo turco sta facendo, che è contro vecchi generali pensionati che 20 anni fa avrebbero formato una specie di gladio come qui in Italia, e che il governo turco fa vedere che l'ha scoperto e mettono in risalto che hanno fatto questa pulizia negli anfratti del governo, insomma, no? Dicendo 20 anni fa abbiamo scoperto questo gruppo Engelon che faceva cose, diciamo, militaristiche, E invece, anzi, questo ha portato pure a cose che poi ne parleremo un'altra volta, mentre invece protegge questi magistrati che stanno invece inveendo contro il popolo curdo, arrestando appunto i sindaci, i segretari comunali, gli insegnanti, i giornalisti, gli avvocati appartenenti a quella parte del popolo curdo che è più impegnata politicamente e che ha vinto pure le elezioni in quelle 100 città. Senti, ma questi contrasti veri o presunti fra governo e fra politici ed esercito, diciamo, si riverberano anche sul Kurdistan, oppure poi quando si parla di Kurdistan comunque tutti hanno la stessa posizione? Questi contrasti, tra virgolette, sono stati sempre usati per coprire la questione curda. È vero che prima il governo turco veniva molto condizionato dai militari e che oggi sembra che sia meno condizionato. Io dico sembra perché poi se le operazioni militari continuano, se l'investimento economico sulle spese, delle spese militari aumenta, evidentemente non è che non sono più consigliati dai militari come avveniva certo dopo il colpo di Stato dell'80 fino a molto oltre l'inizio del 2000, è vero che la politica era molto più militarizzata, ma oggi si è concentrata in zone del sud-est e però adesso gli si riempiono le città, come Istanbul, dove ci sono quasi 5 milioni di curdi che sono dovuti fuggire dai villaggi, per cui i turchi che vivono in queste grandi città hanno cominciato a familiarizzare con i curdi, prima gli venivano sottratti, diciamo, alla vista, alla notizia, all'informazione. Oggi sono in mezzo ai turchi, sono alleati con i compagni della sinistra turca, cosa che non era mai avvenuta. Cominciano a essere emergenti anche nelle città dove ormai vivono. Quindi c'è questo contrasto adesso tra la popolazione turca, un po' come a Israele ci sono compagni che hanno rifiutato di fare militare, che magari familiarizzano con la questione palestinese, e così avviene tra questi popoli che si incontrano anche a causa della distruzione dei villaggi e della distruzione dei loro territori e si inurbano nelle città dell'Occidente della Turchia e cominciano a frequentare anche quelle persone che non sapevano niente, neanche dell'esistenza di questo popolo. C'è gente in Turchia che fino a pochi anni fa non sapeva come c'erano curdi, che non sapevano di essere curdi, perché il governo turco ha sempre nascosto questa realtà, addirittura facendo cambiare i nomi alle persone. C'è gente che si chiamava con un cognome curdo e gli hanno cambiato il cognome in cognome turco. Quindi c'è gente che l'ha scoperto poi negli anni di essere di origine curda. Quindi tutti questi fenomeni, che sono un po' più antropologici, però incidono politicamente, perché la Turchia adesso si trova a dover affrontare anche questa nuova amicizia tra la sinistra turca, coloro che lottano appunto per le condizioni economiche, perché vogliono cambiare la società, eccetera, e questi del popolo curdo, che comunque, devo dire, rispetto ad altre popolazioni sono molto più politicizzati e sono persone che ancora pensano di fare una trasformazione della società in senso socialista, diciamo. Su questo da parte dei compagni curdi in effetti è molto, e quelli che sono politicizzati, ma che sono la maggioranza, e sono quelli che stanno sulle montagne, sono quelli che amministrano le città e lo fanno in modo molto assembleare, la loro gestione anche amministrativa delle città è emblematica, insomma, è un'amministrazione sociale. Immagino che anche nei confronti della sinistra turca, pur non essendo, diciamo, curdi di origine, la mano pesante si abbatta pure su di loro, ecco. Sì, infatti nelle carceri, devo dire, fino a pochi anni fa erano 11.000 della sinistra e 6.000 dei curdi, non è che adesso si è un po' livellata, però la sinistra turca ha sempre sopportato questa mannaia del divieto di sciopero, del divieto di associazione. Per esempio c'è un sindacato dei lavoratori pubblici che è clandestino, anche se, siccome sono moltissimi, sono visibili, però siccome agli dipendenti pubblici turchi è vietato scioperare, loro lo fanno ugualmente, rischiano ogni volta di essere arrestati con altre scuse, però gli viene vietato tutto. Se fanno una manifestazione, è qualche anno che scendono in piazza, ma devono stare sui marciapiedi, insomma questa condizione sociale della sinistra turca, come del popolo turco, è emblematica rispetto anche alla condizione dei curdi. Quindi adesso l'unione di queste parti della popolazione che sta nel paese della Turchia, ci sono poi gli armeni, ci sono moltissime altre, diciamo, etnie, origini diverse che comunque hanno questa solidarietà adesso, cosa che prima non c'era e si sta allargando. Sì, e oltretutto poi in tutto ciò ci sta anche la guerra civile in Siria, che immaginiamo non... Lo so, però lì c'è un altro problema. No, dico sempre parlando di Turchia, senza andare proprio in Siria, però pure quella situazione immaginiamo che comporterà ulteriori problemi anche all'interno delle frontiere turche, no? Vabbè, ma se tu pensi che la frontiera tra Siria e Turchia, la frontiera divide una parte del Kurdistan dalla Siria, e la Turchia lì dove 100 metri più in là arresta e bombarda i curdi, 100 metri più in qua ha fatto le tende per 7.000, 10.000, 20.000 profughi siriani, perché hanno un altro scopo. Certo. Ossia la Turchia ha un governo molto cauto, ma anche molto furbo in questo lato, perché loro accolgono i profughi siriani in funzione anti-Assad, però nello stesso tempo loro hanno il loro problema lì e se lo risolvono come vogliono, comunque continuano a bombardare un po' più su, continuano ad arrestare, capito? Certo. Se tu calcoli che quella frontiera dove stanno accogliendo i siriani nella zona franca, perché dopo comincia il Kurdistan. E lì è tutto un altro paio di maniche, a distanza di pochi chilometri. E questa è la politica. Sì, purtroppo. Va bene, Simonetta. Quindi domani partiamo. Quanto restate? E siamo fino al 7 ottobre. Va benissimo. Quando torniamo, speriamo di faremo dei report che manderemo ai compagni. Poi anche Radio Onda d'Urto ci ha chiesto appunto di sapere come vanno le cose, anche Radio Popolare a Milano, e quindi daremo poi notizie anche a Onda Rossa. Va benissimo. Allora una... Sì. Ci saranno delle notizie, insomma, che sono interessanti anche da giù, che andremo da giù, va bene? Assolutamente, saremo qui. Un abbraccio allora e buon viaggio, a presto. Grazie, ciao.